Il punto di Stefano Folli. La corsa di Matteo Renzi è sempre più solitaria e l'immagine che meglio la rappresenta è di lui con la sciabola in mano che riceve le campionesse della scherma. Il nuovo attacco ai senatori, che invece di pensare alle riforme vogliono solo difendere la poltrona, equivale a passare il Rubicone. Difficile adesso tornare indietro e avviare una nuova mediazione credibile, come pure sarebbe opportuno e anzi necessario. Il Premier va avanti in solitudine e il suo messaggio è sempre più rivolto direttamente agli italiani, a quegli 11 milioni di elettori a cui fa esplicito riferimento. Lo schema è chiaro: da una parte il Premier giovane e dinamico, dall'altra la palude dei conservatori e, come lui dice, dei gufi. Andrebbe tutto bene se le elezioni fossero domani, invece non sono all'orizzonte, mentre c'è da condurre in porto la riforma del Senato, in un caos che non promette niente di buono. E soprattutto ci sono da affrontare le vere riforme, quelle economiche, a cominciare dai conti pubblici che traballano e dal lavoro che manca. E qui non basta la sciabola.